situazione, ma ci sono delle questioni che vale la pena di scavare. Gian Piero Gramaglia ci aiuterà, il titolo del suo libro è Complici ed è già un racconto, praticamente naturalmente si sofferma sulle relazioni pericolose, imbarazzanti di Italia e Libia durante i 42 anni della dittatura di Gheddafi. Avremo il console da Bengasi che quindi ci darà un aggiornamento di prima mano su quello che letteralmente vede dalla sua finestra mentre il Consiglio Nazionale di Transizione avanza, e poi avremo l'uomo che ha tenuto i rapporti con i libici per informare anche i media italiani, vale a dire colui che in questi giorni, avendo delle fonti tra i medici, continuamente è riuscito quasi ad anticipare quello che sarebbe successo. Ma seguiteci e avremo la possibilità di rivolgere anche le vostre domande, che potete inviare con gli sms al 349-238-6666, oppure potete partecipare in diretta all'800-24-00-24. Per visti da fuori, l'appuntamento con i corrispondenti stranieri. Oggi andremo a incontrare qualcuno che produce giornali in Italia, vale a dire l'editore della comunità filippina del giornale Cagayan Times, che scrive in lingua tagalog, italiano e inglese, serve la comunità di filippini e non solo in Italia, essendo scritto in inglese naturalmente. A questo tipo di organo di stampa hanno accesso anche tutti gli altri immigrati, una realtà molto interessante, una realtà di editoria nuova e in crescita. 24 mattino estate con Irene Zerbini. E procediamo, saremo insieme fino alle 9, andremo a parlare di Libia, sconteremo noi da italiani l'amicizia pericolosa che ci ha legato a doppio filo alla dittatura di Gheddafi per 42 anni, perché se anche altri hanno qualcosa da farsi perdonare, hanno qualche imbarazzo per aver chiuso gli occhi quantomeno sulla mancanza del rispetto dei diritti umani in Libia, l'Italia ha decisamente delle scene da cancellare, delle foto da ritoccare. Quindi che dobbiamo fare per riconquistare una credibilità che in questi mesi soprattutto è venuta meno? Ne discuteremo dalle 8:30. Per le vostre opinioni, i vostri sms al 349-238-6666. Tra poco invece andremo a incontrare un corrispondente straniero in Italia del tutto particolare. Sentiamo. Visti da fuori. Beh, ci piacerebbe parlare tagalo per capire questa Bayanco di Freddy Aguilar. È una canzone filippina, come avete capito. E oggi salutiamo Noemi Manalo. Buongiorno, benvenuta Noemi. Buongiorno. Editore di Cagayan Times. Cos'è Cagayan Times? Cos'è Cagayan Times International, Noemi? Un giornale che si circola in tutta Italia, scritto in inglese, in tagalo, che qualche volta anche in italiano. E dunque avete sentito invece i corrispondenti stranieri che informano la loro popolazione nel paese d'origine, come solitamente abbiamo come ospiti in questa rubrica. Oggi abbiamo qualcuno che informa la popolazione, i suoi connazionali, ma dall'interno dell'Italia. E questa della stampa etnica è una realtà in grandissima crescita che caratterizza tra l'altro tutto il mondo della comunicazione di paesi a fortissima immigrazione, e l'Italia anche in questo caso non fa eccezione. Cagayan Times, ci dicevi Noemi, è scritto in tagalog, in inglese. E qualche volta abbiamo anche articoli in italiano. Anche qualcosa in italiano. E che circolazione ha il tuo giornale e soprattutto che frequenza? È un quotidiano, un settimanale? Settimanale. E sì, è distribuito in tutta Italia, stampiamo 50.000 pezzi alla settimana. E quanti sono i filippini in Italia? Più o meno 400.000 filippini in tutta Italia. Ma il tuo giornale, essendo scritto in inglese, probabilmente finisce anche nelle mani di altri immigrati. Sì, tutti quelli che capiscono leggere in inglese. parlano in inglese. Perché naturalmente c'è grande spazio sul Kabayan Times per le informazioni di servizio, la burocrazia, le cose che riguardano i permessi di soggiorno, l'immigrazione, la scuola. Quali sono gli argomenti principali del tuo periodico? Diciamo che molto alle ultime novità di tutto il mondo e molto alle immigrazioni qui in Italia. Il Kabayan Times viene stampato a Milano, ma sì. Tu ci hai detto ci sono circa 300-400 mila filippini in Italia, sono concentrati soprattutto a Milano? No. Arriviamo fino a Roma, anche Palermo, dove ci sono numerose filippine in grande città. La comunità più numerosa dove si trova? Direi qui a Milano e a Roma. Da quanti anni i filippini emigrano in Italia e perché vengono in Italia, Noemi? Io ho già sentito una donna che è già arrivata qui 40 anni fa, lei adesso è in pensione, è venuta qua in Italia per lavorare e è sposata con un italiano, tutta sistemata la sua vita. Quindi a volte sono, dici, fattori anche sentimentali che fanno rimanere i filippini. È venuta in Italia per lavorare e ha trovato il suo amore, è così. Ed è un caso piuttosto raro, succede spesso, il fermarsi perché poi si creano legami, radici? Dipende alla fortuna della persona. Ma quando si parte, per esempio, da Manila per andare in Italia, lo si fa con l'idea, con il progetto di rimanere per un certo numero di anni e rientrare, o con il progetto, o si dice addio per sempre? No, ci sono due cose. Una è per lavorare, il motivo è per lavorare, per cambiare la loro vita. Però ci sono anche quelli che arrivano tramite ricongiungimento familiare per unire con la famiglia. Quali sono le differenze più grandi che si riscontrano tra il vivere a Manila o a Milano, per esempio? Io posso dire che per loro, per noi, possiamo cambiare la loro vita qui in Italia, perché in Filippine c'è anche la crisi, no? Ma c'è la grande differenza, perché in Filippine se una non è laureata non ha la possibilità di trovare un lavoro. Qui in Italia basta che si sia in regola, sai parlare la lingua italiana, hai tutta la possibilità di stabilire la vita. E il secondo motivo è certo che vogliono stare con la famiglia. E ci puoi raccontare, prima di salutarci, se l'omicidio della donna filippina a Milano l'anno scorso ha avuto risonanza, se voi su Kabayan Times state seguendo il processo al colpevole? Ma io direi che non è ancora stato condannato, ma quello che ho saputo, i figli di questa donna che è stata ammazzata hanno avuto le borse di studio dal governo, sono sistemati, ma certo, se può avere la giustizia, quella è la migliore cosa. Una consolazione piuttosto relativa, però un segno importante, tangibile, per persone che hanno lasciato il proprio paese in cerca di una vita migliore. Grazie a Noemi, perché la tua esperienza di editore di questo tipo di organi di comunicazione è decisamente interessante. Io sono anche orgogliosa, ho avuto il premio ISMU di 2010 e voglio anche ringraziare il governo italiano. Questa qui mi ha... Di che premio si tratta? È premio ISMU 2010 dalla Fondazione Cariplo per la migliore impresa, come una dei imprenditori che ha avuto successo. Come imprenditore di successo, e lo testimonia la diffusione di 50.000 copie di questo Kabayan Times, che tra l'altro potete anche guardare su internet, è scritto in inglese. Sì, abbiamo anche il website kabayantimes.org. Grazie ancora Noemi Manalo e naturalmente buon lavoro. Grazie, Ray. Noemi grazie. Manalo è l'editore, avete sentito, di Cagayan Times, un giornale destinato alla comunità filippina e non solo, scritto in italiano, tagalog e inglese. "24 mattino estate". Presso una casa antica e bella, piena di foto di regine e di bandiere, aspettavamo il console italiano. Un omaggio musicale in un momento di grande tensione, questo era Battiato, che in questo album uscito nell'81 fece riferimento a Rodolfo Graziani, che era Graziani, era quel generale che guidò con efferatezza, per usare un eufemismo, l'invasione italiana in Libia per 10 anni, dal 1921 al 1931. E con lui anche Giuni Russo, che avete sentito. E questa invasione italiana in Libia non è l'unica pagina nera della storia italiana in Libia. Naturalmente nella storia più recente ci sono diversi episodi che stanno creando qualche imbarazzo, ma di questo parleremo tra pochissimo con Gian Piero Gramaglia, che ringrazio per la sua presenza. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Consigliere per la comunicazione dell'Istituto Affari Internazionali e editorialista del Fatto Quotidiano. È autore, come abbiamo detto nel corso della mattinata, di Complici, la relazione pericolosa tra l'Italia e il regime di Gheddafi. È stata davvero una relazione pericolosa, è stata davvero e soltanto un imbarazzo. Voi come la pensate? Ditecelo al 349-238-6666. Ma in Libia andiamo direttamente dove ci aspetta il console a Bengasi, il console italiano, Guido De Sanctis, buongiorno. Pronto? Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno console, come ha passato la nottata la città? La nottata, l'ultima nottata è stata piuttosto tranquilla, anche perché dovevano smaltire la stanchezza della nottata precedente che non c'è stata, dati i festeggiamenti che sono andati avanti per tutto il giorno. Purtroppo il risveglio è un po' amaro, perché è diffusa la notizia, si sono viste le immagini di Saif al-Islam libero, no? Che sembrano autentiche, e che gira per Tripoli con dei giornalisti. Saif al-Islam si pensava ormai in stato d'arresto ed è una delle notizie confuse di questi giorni. Si è fatto vedere ampiamente, ha parlato al popolo, e questo è stato registrato un po' come un passo indietro da parte dell'offensiva dei ribelli, una sorta di sconfitta. Lei dice che anche gli stati d'animo naturalmente ne hanno risentito. Ora questo dobbiamo fare tutta una serie di verifiche oggi, essendo Ramadan, non dimentichiamolo, le attività qui cominciano un po' più tardi, però questa qui a un certo punto diventerà la priorità della giornata, perché l'annuncio dell'arresto di Saif al-Islam è stato quello che ha scatenato tutto il festeggiamento dell'altra sera e poi ha dato un'accelerata anche all'avanzata in città, quindi era un momento simbolico di questa lotta, ed è bene capire meglio cosa è successo veramente prima di dare conclusioni. E stiamo parlando del figlio, se non prediletto, comunque giudicato l'erede da parte di Gheddafi. Viviamolo insieme allora a questo momento. Muammar Gheddafi's son Saif al-Islam has appeared on the streets of Tripoli hours after it was reported he'd been captured by the opposition. He says he's not under arrest and plans to make a tour. E questa è Al Jazeera che racconta di come sia apparso nelle strade di Tripoli Saif al-Islam e ha dichiarato: non sono per niente sotto arresto. Eccomi qua, sentiamolo. First of all, I'm here to refute all the rumors and reports. NATO used its most sophisticated technology to block all our communications. They sent text messages to the Libyan people. They interrupted our TV broadcasts. They waged an electronic media war against us to scare our people. They sent gangs and armed groups to Tripoli by sea and civilian vehicles to create chaos. E queste naturalmente le comunicazioni, avete sentito quali sono le problematiche a volte anche nell'ottenere delle informazioni dettagliate e accurate. Si credeva però che una notizia di questo peso fosse assolutamente inconfutabile. Oggi questa, nella notte, Saif al-Islam è spuntato di colpo Al Jazeera, questa era una delle cronache, naturalmente tutte le TV del mondo hanno rimandato queste immagini di lui che stringe la mano meno a coloro che ancora lo sostengono. Qual è la sensazione, console, da parte, naturalmente voi siete a Bengasi, la città del Consiglio Nazionale di Transizione, e quali sono i contatti, che secondo lei ufficiali anche dell'Italia per il dopo Gheddafi, con il Consiglio Nazionale di Transizione? Noi abbiamo contattato il Consiglio in maniera diretta e ad altissimo livello per la prima volta l'8 marzo e io personalmente con un gruppo di altre persone siamo qui dal 9 marzo, quindi questo per dire che abbiamo iniziato molto presto a interloquire con loro. In questo periodo, sono quasi 6 mesi, abbiamo incontri regolari e abbiamo potuto conoscere di persona i maggiori dirigenti della rivoluzione. Naturalmente tutto questo lo facciamo per il futuro, perché questo è un paese nel quale l'Italia ha sempre stabilito una forte presenza economica, commerciale e culturale, e perché vogliamo che questa presenza cresca soprattutto sul lato culturale, perché se come tutti pensiamo si va verso la democrazia, c'è una grandissima richiesta di apprendimento della lingua italiana, che prima era soffocata da una politica antilinguistica del regime, questo solo per fare un esempio. Sì, un esempio che comunque ha una valenza simbolica molto forte. Senta, prima di lasciarla tornare al suo lavoro e alle relazioni diplomatiche, il presidente del Consiglio Nazionale di Transizione, Mustafa Jalil, lei ha incontrato personalmente anche lui? Io l'ho incontrato più volte. Più volte. Ha lanciato appelli in questi giorni. In questi giorni ha invitato la gente a non saccheggiare, a rispettare persone e proprietà. Certo. Le sembra, console, che gli appelli siano stati, saranno accolti? Ma guardi, i libici sono imprevedibili, imprevedibili in positivo. Io ho già alle spalle un'esperienza passata di 4 anni a Tripoli, quindi non sono sbarcato qui dal nulla. E quando sono arrivato a Bengasi ero convinto che avrei trovato, data che comunque le forze di sicurezza, la polizia erano andate allo sbando, avrei trovato una situazione più complessa, anche girare per le strade, e invece poi alla fine si ha la sensazione di essere sicuri, non solo anche ben voluti perché siamo italiani, ma di non correre rischi tipo scippi o aggressioni. Partendo da questo dato, ci voleva l'appello del presidente Jalil, perché purtroppo su Tripoli si sono concentrate animosità e altri sentimenti. Sì, soprattutto si teme che la vendetta, insomma, verso coloro che hanno consegnato le armi tra i lealisti di Gheddafi, e finora ci sembra di capire dai reportage e dalla sua testimonianza diretta il comportamento è quasi ammirevole da parte della popolazione insorta, e dal punto di vista del rispetto delle persone, dal punto di vista del rispetto dei vinti, chiamiamoli così, dando per scontato che si vada in questa direzione, console. Mettiamoci nei panni dei bengasini. I bengasini sono stati relegati in un angolo nel loro stesso paese, perché era la città da cui partivano i focolai, e non parliamo solo libero di quest'anno, ma anche nel 2006, quando fu distrutto il nostro consolato, era una prova di insurrezione poco organizzata. Allora i bengasini dal loro angolo finalmente sono sotto i riflettori del mondo, sono persone che vengono da famiglie miste, voi non immaginate, sono degli incroci a Bengasi di famiglie di tutto il Mediterraneo orientale, quindi è gente che nel sangue ha un atteggiamento cosmopolita, e finalmente lo riscoprono, quindi hanno tutta la voglia di presentarsi al mondo con una figura positiva, di gente che sa ragionare e che non esegue vendette in maniera brutale. Devo dire che al di là dei suoi doveri diplomatici emerge una grande ammirazione, quasi un amore per questa missione, per questo mandato che lei sta svolgendo e per dove soprattutto lo sta svolgendo. Grazie per il suo tempo, console. Grazie a lei, arrivederci. Guido De Sanctis, l'avete sentito con qualche difficoltà sulla linea, ma siamo riusciti a recuperare la sua voce, la sua testimonianza, è il console italiano e ci ha parlato da Bengasi. Buongiorno, benvenuto a Mustafa. Buongiorno a lei. Da dove chiama? Da Vicenza. Dica. Sì, volevo chiedere per favore a Gian Piero Gramaglia, che è stato per anni di Lanza, eccetera, Dopo la cacciata di Gheddafi, speriamo il più presto possibile, i signori chi verranno, lo so, continuerà il rapporto tra l'Italia i rapporti economici tra l'Italia e la Libia, oppure, visto che i francesi hanno cominciato a bombardare per prima assieme agli inglesi, pretendono di essere pagati sfruttando contratti nuovi, eccetera. E poi l'ultima cosa, per favore, signora Zerbini, continuano i giornalisti, anche quelli di Radio 24, a dire Reis non significa dittatore, assolutamente no, è sbagliato, bisogna chiamarlo dittatore direttamente in italiano, perché Reis non vuol dire nulla, vuol dire Reis napolitano, Reis Obama, Reis Sarkozy, non è Reis, vuol dire in arabo, vuol dire in italiano dittatore, sbagliatissimo. Grazie per questo appunto sulla nostra ignoranza. Come avete sentito, ci ha detto anche il console, sono popoli cosmopoliti coloro che vivono in Libia, e naturalmente questo porta anche a una grande intelligenza e accuratezza nell'uso dei vocaboli. Noi italiani un po' meno, noi siamo un po' più sempliciotti, quindi accettiamo la lezione. Giampiero Gramaglia, lei è stato chiamato in causa, lo ripetiamo, autore di Complici, la relazione pericolosa tra l'Italia e il regime di Gheddafi. Continuerà questo rapporto privilegiato dal punto di vista economico tra Italia e Libia anche nel dopo Gheddafi, o qualcuno si siederà al tavolo dei vincitori reclamando maggiore spazio, tagliando fuori l'Italia anche per la sua nota amicizia con Gheddafi, col dittatore, non il Reis? Gramaglia. Beh, senz'altro quello che cui abbiamo assistito, in particolare nel mese di marzo, dopo che l'insurrezione aveva preso un'ampiezza non più contenibile, e dopo il voto dell'ONU che autorizzava l'uso della forza a tutela dei civili in Libia, quello che abbiamo assistito è stata una sorta di inversione ad U della diplomazia italiana nei confronti della Libia, che è stata finalizzata, oltre che al conseguimento di tutele umanitarie, anche alla salvaguardia di quella posizione di forza, non voglio dire di privilegio, ma di forza, di presenza economica dell'Italia in Libia, una presenza che ha radici storiche, mica sempre così encomiabili come quelle della colonizzazione, ma che è poi diventata una costante, direi, dagli anni 50 della politica estera italiana, della politica economica italiana. Diamo qualche numero per dare un'idea dell'intreccio di relazioni economiche. Basta pensare che la presenza energetica in Italia, italiana in Libia, data dalla seconda metà degli anni 50, quindi è ormai più che cinquantennale, con la presenza dell'ENI allora di Mattei. Basta pensare che sono oltre 100, un numero a un certo punto esatto, ma i numeri evolvono rapidamente, era 113 le aziende italiane, da quelle più grandi come l'ENI o aziende di costruzioni o l'Ansaldo, a quelle più modeste di interrelazione commerciale presenti, attive in Libia. Basti pensare alla presenza del capitale libico in alcune grandi aziende italiane come la Fiat, o alcuni grandi complessi finanziari italiani come Unicredit. Quindi l'Italia, per sintetizzare, possiamo dire il principale partner economico della Libia di Gheddafi. Senz'altro, l'Italia era il principale partner economico della Libia di Gheddafi, senz'altro l'Italia mira a restare il principale partner economico della nuova Libia, ma è indubbio che l'attenzione, l'attivismo diplomatico e anche militare, in particolare della Francia in questa crisi, può avere come risultato un rafforzamento della presenza francese e un relativo indebolimento di quella italiana. Già forte, va detto. Alla luce di quelli che saranno gli sviluppi dopo Gheddafi, che restano molto molto incerti. Già forte la presenza francese, dicevamo, non sarebbe una novità se anche la Libya Investment Authority ha evidenziato che gli investimenti della Libia in Italia, sto citando il tuo libro Giampiero Gramaglia, valgono 3 miliardi di euro e sono inferiori solo agli investimenti francesi, calcolati in 5 miliardi di euro. Qua ci stiamo riferendo al 2009. Ci sono poi anche i fondi depositati negli Stati Uniti, recentemente congelati però dagli Stati Uniti, sono stimati intorno a 32 miliardi di dollari. Torneremo ad affrontare diversi aspetti, c'è anche il mistero sul numero dei feriti, sul numero dei morti, sulle vittime di questi giorni. Abbiamo con noi una fonte privilegiata o qualcuno che ha accesso ampiamente agli ospedali e ai medici libici, il dottor Fouad Adi, che saluto. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti quanti. 24 mattino estate. Ahmed Fakhroun è un cantante di Bengasi, è considerato un po' il pioniere della musica moderna araba, della world music, come è stata definita, e lo stiamo ascoltando proprio per immergerci un po' nell'atmosfera locale. Sembra sia una delle canzoni più ascoltate dai ribelli, questa Ya Bladi. Dottor Fouad Adi, presidente delle comunità del mondo arabo in Italia e presidente dell'associazione dei medici di origine straniera in Italia. In questi giorni un lavoro intenso, avrà dormito pochissimo, immaginiamo. Lei è stato il primo ad anticipare alcune notizie importanti, che si stava preparando per esempio l'azione finale 3 settimane fa e che i ribelli puntavano a Piazza Verde. A proposito, che valore ha simbolico questa Piazza Verde? Cosa rappresenta? Due cose, anche il colore, il verde, che è la bandiera, il colore della bandiera verde di Gheddafi, e poi per quanto riguarda ultimamente a Tripoli, Gheddafi citava o radunava i libici che manifestavano a favore suo per dire ai libici e al mondo che c'ha un sostegno non indifferente. E adesso è stato cambiato subito il nome di Piazza della Verde a Piazza dei Martiri, perché sono morti parecchi, purtroppo ci è costato molto negli ultimi giorni e parecchie vittime, per questo siamo dispiaciuti molto. Subito. Lo spargimento di sangue della gente libica e poi l'invito di Gheddafi a non fare prigionieri è stato il culmine, insieme all'invito a schiacciare i ratti, e quindi c'è questo timore che ci sia un'altra escalation di violenze. Ma intanto, dottor Adi, lei in questi giorni è in contatto con i medici che lavorano negli ospedali libici e no? Qual è la situazione? È difficile quantificare anche il numero di vittime, il numero di feriti. Qual è la situazione? Cosa le raccontano dalle corsie? Allora, la situazione è come quella che stava misurata, che quando c'è un conflitto in atto ci sono difficoltà di andare direttamente dai feriti, anche con i mezzi di soccorso. Ci sono pochi medici e purtroppo ci sono tanti medici di origine straniera e stanno scappando. Che stanno scappando. Qualche giorno fa abbiamo dato la notizia dei 10.000 lavoratori di origine straniera che volevano uscire da Tripoli, e per questo l'unico ospedale che sta a Tripoli sta in una grave situazione, anche considerando che ci sono parecchi feriti bambini e ci sono anche donne, e mancano ortopedici perché ci sono tante fratture, ci sono tanti traumi, mancano tutto quello che riguarda la branca di emergenza di cardiochirurgia. E vogliamo questo segnalare anche, visto che lo merita, io credo, una menzione, che a fronte di queste 10.000 persone, poi tra l'altro tantissimi anche infermieri, paramedici, non solo dottori, che scappano, che vogliono cercare salvezza, che temono per la propria incolumità, c'è anche qualcuno, dottor Adi, che invece in questi giorni sta andando in Libia proprio per aiutare negli ospedali. Molto sì, meno, però ci sono. Sì, abbiamo i nostri medici, uno dei primi medici che è andato dopo l'azione militare, che noi speravamo fino all'ultimo minuto che non avvenisse, speravamo in una via diplomatica per evitare un altro scontro tra l'Occidente e il mondo arabo, perché il mondo arabo vede molto con scetticismo queste azioni militari, che purtroppo ancora ci sono ferite aperte in Iraq, in Afghanistan e in altri paesi. Per questo ci sono uno dei nostri medici che siamo in contatto e ci racconta delle cose che magari tante volte le nostre notizie sono emerse notizie originali, perché non passano tramite le vie dei giornali vari, perché racconto della storia vera e della vita quotidiana della Libia, che la Libia è diversa da altre situazioni nel mondo arabo, perché lì adesso tutti guardano questa propaganda che ogni giorno cambia i scenari. Ieri sera parlavamo di una cosa, stamattina ne abbiamo vista un'altra. E un'altra, per questo la cautela e speriamo con la fiducia che questa sofferenza, grande sofferenza, finisca il più presto possibile e che l'Occidente, che le diplomazie internazionali, che la politica estera italiana, che il governo italiano, che il presidente Berlusconi prendano un insegnamento importante di questo. Il mondo arabo guarda con tanta fiducia verso l'Italia, guarda con tanta fiducia verso l'Europa, ma non vogliono che si parla tramite azioni militari, vogliono che si parli tramite canali e ponti di dialogo e ponti di conoscenza e non pregiudizi e propagande che non sono costruttivi. Dottor Audì, e voglio leggere anche un sms al 349-238-6666. Ho lavorato in Libia dal 97 fino al gennaio 2011 per imprese italiane, poi libiche. La Libia è un paese fantastico, ci scrive questo ascoltatore, i suoi abitanti sono unici, quello che possiamo fare è stare tutti vicini ai libici con costanza, perché capiscono il nostro rapporto con il regime, che è stato simile a loro per interesse. Questo è Guido da Milano. Torniamo a Gian Piero Gramaglia. Dunque, sconteremo queste amicizie pericolose, ci chiedevamo. Gian Piero Gramaglia, Gheddafi ha predicato il Corano qua a Roma, ha piantato la tenda a Villa Panfili, era solo folklore. Ma quello che va distinto è, da una parte, la liceità e la assoluta correttezza dell'intensità dei rapporti commerciali e dei rapporti economici e anche dei rapporti politici tra due paesi che sono vicini come l'Italia e la Libia. Quello che è stato, a mio giudizio, un po' gratuito, un po' eccessivo negli ultimi tempi è stato lo sfoggio o l'esibizione di una amicizia anche personale e di un'intensità di rapporti con un personaggio di cui si conoscevano la statura di dittatore e anche la mancanza di rispetto nei confronti della sua popolazione, delle libertà fondamentali democratiche e dei diritti dell'uomo, che potevano essere alcune esternazioni senz'altro evitate, potevamo forse evitarci, come hanno fatto altri paesi, di lasciargli piantare la tenda a Villa Panfili o di lasciargli predicare il Corano a giovani donne, sia pure convocate a pagamento per assistere alla sua predica. Cioè altre nazioni avevano detto no. Non l'hanno concesso, certo non ha piantato la tenda sui Campi Elisi e tantomeno a Central Park a New York. E l'aveva chiesto? Per quanto ne so io, senz'altro l'aveva chiesto quando sbarcò all'ONU l'ultima volta, alle Nazioni Unite, ma gli Stati Uniti non diedero spazio, naturalmente. In qualche modo si vendicò facendo uno show alla tribuna delle Nazioni Unite, dove parlò molto di più di quello che era il tempo a sua disposizione. Qualcun altro è stato così di manica larga con Gheddafi, non solo l'Italia ha chiuso gli occhi, ricordiamo Lockerbie, ricordiamo il comportamento della Gran Bretagna che gli ha restituito con tutti gli onori uno degli assassini di Lockerbie, ma l'Italia è andata ben oltre e torno con la domanda finale, Gramaglia, questa amicizia la sconteremo, avremo ancora credibilità, come recuperarla? Beh, pare che le mosse e anche la testimonianza che abbiamo avuto, che hai avuto in questa trasmissione del console a Bengasi, testimoniano di una attività diplomatica intensa e di un essersi riposizionati. E quindi ci sarà un riposizionamento. Consiglio nazionale transitorio. Devo interromperti. Devo interromperti, il GR bussa alle porte. Grazie anche a Gian Piero Gramaglia, a tutti voi che ci avete seguito. 24 Mattino Estate ritorna domani alle 7:15.